in primo piano. Buongiorno, buongiorno, sono Dino Pesole e sono qui con voi per commentare i giornali di oggi, che sono per molti aspetti, almeno per quel che riguarda le aperture, dedicate ad argomenti simili. Il più rilevante è naturalmente la visita che Berlusconi ha fatto ieri in Libia, e ne ha parlato a lungo con il premier Gheddafi. L'Italia respinge in Libia un barcone con 75 stranieri, tra cui 3 minori, è il titolo del Corriere della Sera. Berlusconi va da Gheddafi: sugli immigrati serve rigore. Se vogliamo procedere a una politica vera di integrazione, dobbiamo essere rigorosi per non aprire l'Italia a chiunque, ha detto Berlusconi. Ecco, quindi questo è il Corriere. Per quanto riguarda la Repubblica, il Premier: rigore sui clandestini, gommone respinto in Libia. Però appunto volevo sottolineare anche il fatto che negli altri giornali la notizia relativa a Tokyo, vale a dire alla vittoria del Partito Democratico, ha un rilievo decisamente superiore. Ad esempio vediamo i giornali esteri. Qui ho il Wall Street Journal, che titola appunto: il Giappone entra in una nuova era. Entra in una nuova era. Dunque il Giappone svolta dopo 54 anni e dà la vittoria al Partito Democratico. E anche il Financial Times dedica l'apertura allo stesso argomento. E appunto le prime indicazioni sulle votazioni in Giappone danno la vittoria al Partito Democratico, ed è una notizia, diciamo, piuttosto rilevante. I nostri giornali, come dire, preferiscono concentrare la loro attenzione appunto su questa visita del Premier Berlusconi in Libia, e per la verità, diciamo, una visita di un certo interesse, perché, come leggiamo anche da una corrispondenza del Corriere, alle 7 della sera l'esibizione delle frecce tricolori, ricordiamo c'è stata anche una certa polemica sul fatto che l'Italia abbia concesso alle frecce tricolori di esibirsi nei cieli libici. Due giri della morte, ripetuti passaggi nella formazione A, V, un paio di fumate grigie, e questa cerimonia suggella un anno esatto da quando appunto che è trascorso dalla firma dell'accordo che ha chiuso 50 anni di contenzioso tra i due stati. Ma ovviamente sullo sfondo della visita di Berlusconi c'è appunto il problema dei respingimenti, ed è questo uno degli aspetti che vengono sottolineati ad esempio dagli altri giornali. Repubblica, nella sua apertura, mette infatti insieme la tesi di Berlusconi, che dice appunto ci vuole rigore sui clandestini, e però al tempo stesso ricorda il gommone respinto in Libia. Le parole di Berlusconi sono: se vogliamo davvero procedere a una politica vera di integrazione, dobbiamo essere rigorosi per non aprire l'Italia a chiunque. Appunto lo dice Berlusconi nel giorno in cui la Guardia di Finanza respinge un barcone con 75 clandestini a bordo. Anche gli altri giornali danno ampio spazio a questo argomento. Vediamo La Stampa: rigore con i clandestini, Berlusconi in Libia da Gheddafi, le motovedette italiane respingono un altro barcone con 75 migranti. Anche Il Messaggero ovviamente apre: Berlusconi, immigrati più rigore. L'altro argomento che vorrei sottolinearvi è che prende un po' l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica in questi ultimi giorni, è la polemica sulla presunta informativa rivelata nei giorni scorsi dal Giornale, il quotidiano berlusconiano diretto da Vittorio Feltri, a proposito del direttore dell'Avvenire Dino Boffo. Questione appunto, diciamo, poc'anzi, che tiene banco sui giornali. E ci sono state polemiche con il Vaticano, è saltata la cena cosiddetta riconciliatrice della perdonanza di venerdì tra Berlusconi e cardinale Bagnasco, vediamo un po' come i giornali ne trattano. Ad esempio, subito vediamo Repubblica, Boffo contro di me un'emerita patacca. PD il caso in Parlamento. Bertone solidale con il direttore di Avvenire. Contro di me non c'è nessuna pratica informativa di fonte giudiziaria, ma soltanto un'emerita patacca. Così dice Dino Boffo, direttore dell'Avvenire. E più o meno è la stessa notizia che viene riportata da quasi tutti i giornali. A questo proposito è importante e interessante vedere come il giornale riprende questa vicenda. Ovviamente grandissimo risalto nella prima pagina del giornale diretto da Vittorio Feltri. Il titolo è La patacca c'è, ma è di Repubblica. Quindi qui la questione si sposta in una polemica diretta tra giornali. Risposta alla CEI e ai giornali omologati. Pur di attaccare Berlusconi, Scalfari, e qui il riferimento è a quanto ha scritto il fondatore di Repubblica ieri sul giornale, inventa di sana pianta un incontro a Roma tra il premier e il direttore del giornale. È inattendibile, come molti colleghi che si appiattiscono sul disgusto di Bagnasco e cianciano di falsi. Ecco la verità. E la verità, secondo il giornale di Feltri, è in un documento che il giornale pubblica con grande evidenza, in prima pagina, della Procura della Repubblica, ed è l'atto del Tribunale di Terni. Così, scrive il giornale, non ci sono dubbi su chi vende patacche. Qualche volta vale la pena di ripetersi. Negli atti del casellario giudiziario si leggono queste parole. Il dottor Dino Boffo è stato condannato con sentenza definitiva a compatteggiamento a un'ammenda per molestie alle persone ai sensi dell'articolo 660 del codice penale. Quindi di nuovo questa polemica che ovviamente troviamo sugli altri giornali, vediamo ad esempio il Messaggero, accuse al direttore di Avvenire e scontro sull'informativa e il Premier dice che non ha mai parlato con Feltri. Quindi anche qui sul giornale è riportato con evidenza nelle prime pagine e anche nei resoconti interni. L'altro argomento importante, interessante, anche perché riguarda, come dire, la vita prossima di tutti noi, è questo problema relativo, l'allarme relativo all'influenza A, la nuova influenza. C'è stato un nuovo allarme dei pediatri che hanno appunto messo in evidenza il fatto che ci possano essere dei problemi molto seri con l'apertura delle scuole. E c'è però al tempo stesso, accanto all'allarme dei pediatri, la rassicurazione del ministro della pubblica istruzione Gelmini, che dice non c'è alcun problema, è tutto sotto controllo, non esiste alcuna ipotesi di rinvio dell'apertura dell'anno scolastico. Questo è un elemento interessante che ritroviamo anche con evidenza nella prima pagina del Messaggero. Influenza A, i pediatri, scuole chiuse, Gelmini, nessun rinvio dell'apertura. Contro la diffusione della pandemia, i pediatri chiedono la chiusura delle scuole, mentre Giuseppe Mele, presidente della Federazione Italiana Pediatri, invita il governo a prendere in seria considerazione l'ipotesi di far slittare l'anno scolastico. Ma di parere opposto è la Federazione dei Medici di Famiglia. Al momento non ci sono elementi per sostenere la proposta di chiusura ed è la stessa tesi del ministro Gelmini, come abbiamo visto poc'anzi. Ci sono molti altri argomenti, ne parleremo tra brevissimo, che emergono sui giornali. Ora però una breve pausa per le informazioni per chi viaggia. In primo piano. Bene, riprendiamo la lettura dei giornali e lo riprendiamo con un'attenzione particolare a quel che è avvenuto ieri in Giappone. Poi parleremo anche molto brevemente di quel che è avvenuto in Germania. Anche lì c'è stata una tornata elettorale che ha un certo rilievo, anche e soprattutto in prospettiva delle prossime elezioni politiche, che potrebbero vedere la riconferma dell'attuale cancelliere Angela Merkel. Dunque, in Giappone è accaduto che dopo 54 anni il leader del Partito Democratico, Yukio Hatoyama, ha conquistato il ruolo che è stato di suo nonno ed è dunque diventato il 60esimo premier del Giappone. Interessante a questo proposito un commento che leggiamo dalla stampa di Boris Bianchieri, che come sappiamo è un opinionista, ex ambasciatore, in cui si dice appunto il Giappone cambia dopo 50 anni. E cambia per la prima volta in più di 50 anni con l'insignificante parentesi di un esperimento di coalizione che è durato pochi mesi. Il Partito Liberal Democratico, che ha segnato la trasformazione del Giappone post-bellico e la creazione di una potenza economica seconda solo a quella americana, esce di scena e l'opposizione storica prende il potere. Il margine della vittoria le assicura piena capacità di governare. Naturalmente a questo proposito si aprono ora per il Giappone, grande potenza mondiale, che ha un ruolo fondamentale negli equilibri geopolitici mondiali, si aprono ora molti interrogativi per un paese che ha ovviamente molti problemi da affrontare, non ultimo quello di un imponente debito pubblico. A questo proposito segnalo dall'Unità, in pagina 11, un'intervista all'orientalista Franco Mazzei, che è proprio su questa svolta in Giappone. A proposito del professor Mazzei, si è trattato in gran parte di un voto dettato dalla frustrazione, dalla rabbia, per la lunghezza della crisi e per il declino della qualità della vita, per un tasso di disoccupazione salito ben oltre il 5%, in un paese dove sino a poco tempo fa non esisteva quasi il licenziamento. Quindi la collera popolare, secondo Mazzei, si è riversata sul Partito Liberal Democratico al potere, esprimendo una grande voglia di cambiamento, come dimostra l'altissima percentuale dei votanti. Quindi grande svolta in Giappone, vediamo appunto quel che avverrà, ma dagli esteri troviamo anche con una certa evidenza nei giornali di oggi, vedo Repubblica ad esempio un riquadro. In prima pagina ieri hanno votato tre Länder, si è trattato dunque di elezioni locali, regionali, ma di un grande interesse. C'è stato il crollo della CDU, che è il partito della cancelliera, a un mese dalle elezioni politiche. Dunque, quali scenari possono aprirsi da ora a quando si voterà tra un mese per le elezioni politiche? Vediamo come ne dà conto nella corrispondenza di Andrea Tarquini da Berlino. Si parla di una forte vittoria della Linke, la sinistra radicale, e uno schiaffo alla CDU della cancelliera Angela Merkel, in quella che viene definita la super domenica elettorale tedesca, e le elezioni si sono svolte in 3 dei 16 stati della Repubblica Federale. Si è trattato di Sassonia e Turingia all'est e Saarland all'ovest e le comunali in Nordrhein-Westfalia, che è il Bundesland più popoloso. E dunque è interessante quello che si prospetta per la Germania, anche se ovviamente è ancora presto per poter concludere se da queste indicazioni di voto possano esserci dei cambiamenti rilevanti per la politica tedesca nei prossimi mesi. Cambiamo argomento, andiamo al Sole 24 Ore del lunedì, dedica la propria apertura a una panoramica sui tagli fiscali che sono stati sostanzialmente rinviati da parte di gran parte dei paesi a causa della crisi. Si è interrotta la corsa al ribasso delle aliquote. In questa panoramica, in cui il focus principale è in prevalenza sulla tassazione relativa alle società, si dice che si ferma in tutto il mondo la corsa al ribasso delle imposte sulle società dopo un decennio di ripetuti tagli alle aliquote della corporate tax. È una delle conseguenze della recessione da cui l'economia globale cerca faticosamente di uscire, con la sola eccezione della Russia, che invece ha portato il suo rate sulle imprese dal 24 al 20%. Ma tranne la Russia, nessuno tra i grandi paesi ha ridotto il peso del prelievo sulle società nell'ultimo anno. È una tendenza ovviamente che riguarda un po' tutti i paesi alle prese, come sappiamo, con una crisi globale, con gli effetti della crisi, e dunque crisi che ha un impatto notevole sui conti pubblici. Cadono le entrate fiscali, aumenta il debito pubblico e quindi difficilmente in queste condizioni si possono immaginare piani di riduzione delle tasse. Segnalo ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì che per colf e badanti viene un aiuto dai comuni sulle pratiche online. Da domani le domande. Da oggi scendono in campo anche i comuni per affiancare il Viminale in quella che si annuncia come la più grande regolarizzazione del lavoro domestico dopo la Bossi-Fini, che nel 2002 raccolse 650.000 domande. Questo perché da domani, ricordo, sarà possibile presentare le richieste telematiche senza fretta. C'è tempo fino al 30 settembre, perché non ci saranno graduatorie in base all'orario o al giorno d'arrivo. E quindi in questo senso scendono in campo anche i comuni per dare una mano. Dalla prima pagina del Mattino ci viene una suggestione importante, soprattutto oggi, perché ritorniamo tutti, ognuno al lavoro, tra un po' riprenderanno anche le scuole. E dunque vacanze finite, ci dice Il Mattino, ora cambiamo tutto. Stavolta si torna davvero. Nel giro di 15 giorni saremo tutti ai nostri posti, giovani e adulti. Non sarà proprio una passeggiata. Lunghe o corte, riuscite o problematiche, le vacanze ci hanno comunque abituato a produrre di meno, a dedicarci a quello che vogliamo noi più che a quello che ci viene richiesto dagli altri. Come affrontare questo cambiamento? Già, è il problema che riguarda tutti noi ogni anno. Al ritorno dalle vacanze, quest'anno diciamo, le preoccupazioni sono ancor più evidenziate dal fatto che appunto la crisi economica morde, ci saranno effetti anche evidenti sull'occupazione, però appunto vediamo cosa accadrà con le vacanze finite, col nostro rientro al lavoro. Dal Foglio Quotidiano, diretto da Giuliano Ferrara, segnalo l'apertura relativa a uno dei problemi che hanno caratterizzato il rientro appunto dalle vacanze, così ci colleghiamo a quel che diceva prima il servizio del Mattino, cioè ai ritardi nel rientro dei bagagli a Fiumicino, valigie perse, insomma il solito caos nostrano che ogni anno ci accompagna al ritorno delle ferie. Caos, aeroporti, all'Italia e Fiumicino si rimbalzano le colpe, passeggeri, ostaggio del salvataggio tricolore. Infine, poi ci salutiamo, ricordo dalla Gazzetta dello Sport che ci segnalano, appunto, soprattutto con grande evidenza, la vittoria di ieri della Juventus sulla Roma per 3-1 con la doppietta del neoacquisto Diego che viene ormai definito un po' da tutti il nuovo fenomeno. Bene, vi ringrazio. Con la lettura dei giornali oggi abbiamo concluso. L'appuntamento è per domani. Ridò la linea a 24 mattino con Alessandro Milan. Grazie ancora a tutti voi da Dino Pesole.